Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Buonasera da Maurizio Melis. Stasera mi tocca iniziare con un'errata corrige. Sono infatti 12 e non 8, come ho detto stamattina, le isole minori italiane non connesse alla rete elettrica. Isole nelle quali l'energia viene prodotta per mezzo di generatori diesel con costi molto elevati ed anche emissioni di CO2 molto elevate. Ma non è solo questa la caratteristica che rende i contesti insulari del tutto eccezionali per quanto concerne l'approvvigionamento energetico. La sfida infatti è altrettanto difficile se pensiamo per esempio alla difficoltà di integrare le fonti energetiche, incluse e non escluse le rinnovabili, in contesti particolarmente sensibili dal punto di vista ambientale e paesaggistico, come appunto le isole, ma anche come le aree marine protette. Ecco perché si può parlare di un vero e proprio laboratorio naturale per le energie rinnovabili, ed ecco perché l'associazione ambientalista Mare Vivo, insieme ad Enea, insieme al gestore dei servizi energetici, ai ministeri dell'ambiente e dei beni culturali e anche all'Università della Sapienza, hanno indetto il concorso internazionale di idee le energie rinnovabili per le isole minori e le aree marine protette. Ne parliamo con Carlo Manna, che è responsabile dell'ufficio studi Enea. Buonasera Manna. Buonasera Melis. Allora, iniziamo, quattro coordinate velocissime sul concorso. Chi e come si partecipa? Ma allora, il concorso è aperto a diverse tipologie di proponenti. Possono essere imprese, professionisti, studi professionali, ma anche studenti. E questo è come di fatto poi è stato già gestito in un primo anno, in cui abbiamo avuto risposte un po' da tutte queste tipologie. Sì, e poi per i dettagli si può consultare il sito di Mare Vivo, che è l'associazione ambientalista che ha un po' lanciato questa operazione. A proposito del concorso dell'anno scorso, che era incentrato però sull'energia solare per le isole minori italiane, sono venute fuori un po' di idee, tra cui un COP fotovoltaico ad alto contenuto tecnologico. Sì, il coppo fotovoltaico, così come si chiama, perché appunto in quel caso è proprio un coppo tradizionale, il coppo romano, interessante perché non è la solita sovrapposizione del modulo fotovoltaico alla tegola, ma è una cella fotovoltaica che è inglobata e annegata all'interno di un materiale di tipo resine epossidiche che simula molto bene il colore, la forma e anche la ruvidezza del coppo, e che appunto ingloba la cella. Questo può voler dire un bel passo avanti, la possibilità di utilizzare il fotovoltaico nei centri storici, quindi certo. Come capisce non è solo finalizzato a un intervento in un'isola minore, ma diventa poi un tipo di componente che può essere adottato in tutta una serie di altri contesti. Ecco, però proprio da questo punto di vista, qui veniamo un po' al tema che abbiamo in qualche modo anticipato, queste isole minori proprio come laboratorio per questo tipo di esperienze, perché produrre energia elettrica su queste isole costa tantissimo. Arrivano a dei picchi che superano un euro al kilowattora. Sì, quindi insomma il doppio di quello che costa farli col fotovoltaico con gli incentivi italiani, insomma, quindi diventa veramente possibile sperimentare una serie di soluzioni che invece sulla terraferma sarebbero molto antieconomiche, no? Sicuramente sì, ma poi il modo con cui vengono prodotti questi kilowattora per lo più sono delle modalità che sono veramente molto molto poco attente dell'ambiente. E quali sono allora le direzioni di sviluppo tecnologico più interessanti che si possono intravedere in questi contesti, anche per dare, come dire, un suggerimento, un'indicazione di quelli che possono essere dei temi che è utile affrontare in questo concorso? Ma vede, come l'anno scorso il tema era il solare, quest'anno il tema è l'integrazione tecnologica, quindi tecnologie integrate, saper cogliere le sinergie possibili tra diverse fonti di energia. Questo evidentemente dovrebbe spingere il proponente a pensare a una situazione specifica, perché ogni situazione ha una sua realtà specifica che va studiata. Non c'è solo un'opportunità legata all'irraggiamento solare diretto piuttosto che al vento disponibile, l'isola ha intorno questo patrimonio che è l'acqua di mare, e lei sa bene come questo già di per sé può diventare diciamo fonte di una risorsa che può essere utilizzata anche da un punto di vista energetico. E poi per esempio anche il riscaldamento e raffreddamento, no? È molto più facile da questo punto di vista. Anche l'immagazzinamento di energia in questi contesti isolati può diventare molto importante e, come dire, avere dei costi accettabili rispetto alla terraferma, dove invece, insomma, l'immagazzinamento viene considerato molto costoso. Sicuramente sì, anche questo è uno dei, anzi se vogliamo, uno degli argomenti più importanti da affrontare, forse quelli sui quali ci si è impegnati di meno. Allora, uno studio in una realtà isolata può portare a degli effetti, a dei risultati particolarmente interessanti e poi esportabili. Poi c'è anche il discorso della mobilità, evidentemente. No? Quindi, a meno che non sia un'isola talmente piccola che ci si può girare tranquillamente a piedi o al massimo in bicicletta, beh, qualche motorino elettrico o qualche piccola autovettura elettrica può andare a sostituire. E può essere un modello che funziona molto bene su un'isola dove si riesce appunto a produrre energia elettrica col fotovoltaico, ma non quando si vuole. Però poi ci sono le batterie delle macchine. Esatto. Grazie Carlo Manna. Prego, a presto, arrivederci. Bene, per stasera è tutto, vi do appuntamento a domani, andremo all'Area Science Park di Trieste per parlare di un oggetto, la pompa di calore ad alta temperatura, che loro però preferiscono chiamare caldaia, così più amichevolmente. Buona serata!